Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Dodicesima puntata. Il primo giorno di mercato Cinto venne all'angelo a prendere il coltello che gli avevo promesso. Mi dissero che un ragazzotto mi aspettava fuori e trovai lui vestito da festa con gli zoccoletti dietro a quattro che giocavano a carte. Suo padre, mi disse, era in piazza che guardava una zappa. Vuoi i soldi o il coltello? Gli chiesi. Voleva il coltello. Allora uscimmo nel sole, passammo in mezzo ai banchi delle stoffe e delle angurie, in mezzo alla gente, ai teli di sacco distesi a terra, pieni di ferri, di rampini, di vomeri, di chiodi, e cercavamo. Se tuo padre lo vede, gli dissi, è capace che te lo prende, dove lo nascondi? Cinto rideva con quegli occhi senza ciglia. Per mio padre, disse, se me lo prende lo ammazzo. Al banco dei coltelli gli dissi di scegliere lui. Non mi credeva. Avanti, sbrigati. Scelse un coltellino che fece gola anche a me, bello, grosso, color castagna d'India, con due lame a scatto e il cavatappi. Poi tornammo all'albergo e gli chiesi se aveva trovato delle altre carte da gioco nei fossati. Lui teneva in mano il coltello, lo apriva e lo chiudeva provandone le lame contro il palmo. Mi rispose di no. Gli dissi che io una volta m'ero comprato un coltello così al mercato di Canelli e mi era servito in campagna per segare i salici. Gli feci dare un bicchiere di menta e mentre beveva gli chiesi se era già stato sul treno o in corriera. Più che sul treno, mi rispose, gli sarebbe piaciuto andare in bicicletta, ma Agosto del Morone gli aveva detto che col suo piede era impossibile, ci sarebbe voluta una moto. Io cominciai a raccontargli di quando in California circolavo in camioncino e stette a sentirmi senza più guardare quei quattro che giocavano a tarocchi. Poi mi disse, quest'oggi c'è la partita, e allargava gli occhi. Stavo per dirgli, e tu non ci vai, ma sulla porta dell'angelo comparve il valino, nero. Lui lo sentì, se ne accorse prima ancora di vederlo, posò il bicchiere e raggiunse suo padre. Sparirono insieme nel sole. Cosa avrei dato per vedere ancora il mondo con gli occhi di Cinto, ricominciare in gaminella come lui, con quello stesso padre, magari con quella gamba, adesso che sapevo tante cose e sapevo difendermi. Non era mica compassione che provavo per lui, certi momenti lo invidiavo. Mi pareva di sapere anche i sogni che faceva la notte e le cose che gli passavano in mente mentre arrancava per la piazza. Non avevo camminato così, non ero zoppo io, ma quante volte avevo visto passare le carrette rumorose con sulle sediate di donne e ragazzi che andavano in festa, alla fiera, alle giostre di Castiglione, di Cossano, di Campetto, dappertutto, e io restavo con Giulia e Angiolina sotto i noccioli, sotto il fico, sul muretto del ponte, quelle lunghe sere d'estate, a guardare il cielo e le vigne sempre uguali. E poi la notte, tutta la notte, per la strada si sentivano tornare cantando, ridendo, chiamandosi attraverso il belbo. Era in quelle sere che una luce, un falò, visti sulle colline lontane, mi facevano gridare e rotolarmi in terra perché ero povero, perché ero ragazzo, perché ero niente. Quasi godevo se veniva un temporale, il finimondo di quelli d'estate, e gli guastava la festa. Adesso a pensarci, rimpiangevo quei tempi. Avrei voluto ritrovarmici. Avrei voluto ritrovarmi nel cortile della Mora, quel pomeriggio d'agosto che tutti erano andati in festa a Canelli. Anche Cirino, anche i vicini e a me, che avevo soltanto degli zoccoli, avevano detto «Non vuoi mica andarci scalzo, resta a fare la guardia». Era il primo anno della Mora e non osavo rivoltarmi. Ma da un pezzo si aspettava quella festa. Canelli era sempre stata famosa. Dovevano far l'albero della cuccagna e la corsa nei sacchi, poi la partita al pallone. Erano andati anche i padroni e le figlie e la bambina con l'Emilia sulla carrozza grande. La casa era chiusa. Ero solo col cane e coi manzi. Stetti un pezzo dietro la griglia del giardino a guardare chi passava sulla strada. Tutti andavano a canelli, invidiai anche i mendicanti e gli storpi. Poi mi misi a tirar sassi contro la colombaia per rompere le terrecotte e li sentivo cadere e rimbalzare sul cemento del terrazzo. Per fare un dispetto a qualcuno presi la roncola e scappai nei beni, così pensavo, non faccio la guardia, bruciasse la casa, venissero i ladri. Nei beni non sentivo più il chiacchiericcio dei passanti e questo mi dava ancor più rabbia e paura e avevo voglia di piangere. Mi misi a caccia di cavallette e gli strappavo le gambe rompendole alla giuntura. Peggio per voi, gli dicevo, dovevate andare a canelli. E gridavo bestemmie, tutte quelle che sapevo. Se avessi osato avrei fatto in giardino un massacro di fiori. E pensavo alla faccia di Irene e di Silvia e mi dicevo che anche loro pisciavano. Un carrozzino si fermò al cancello. «C'è nessuno?» sentii chiamare. Erano due ufficiali di Nizza che avevo già visto una volta sul terrazzo con loro. Stetti nascosto dietro il portico, zitto. «C'è nessuno? Signorine!» gridavano. «Signorine Irene!» Il cane si mise ad abbaiare, io zitto. Dopo un po' se ne andarono e adesso avevo una soddisfazione. Anche loro, pensavo, bastardi. Entrai in casa per mangiarmi un pezzo di pane. La cantina era chiusa, ma sul ripiano dell'armadio, in mezzo alle cipolle, c'era una bottiglia buona e la presi e andai a bermela tutta dietro le dalie. Adesso mi girava la testa e ronzava come fosse piena di mosche. Tornai nella stanza, ruppi per terra la bottiglia davanti all'armadio come se fosse stato il gatto e ci versai un po' d'acquetta per fare il vino. Poi me ne andai sul fienile. Stetti ubriaco fino a sera. E da ubriaco abbeverai manzi, gli cambiai strame e buttai il fieno. La gente cominciava a ripassare sulla strada. Da dietro la griglia chiesi che cosa c'era attaccato sul palo della cuccagna. Se la corsa era stata proprio nei sacchi. Chi aveva vinto? Si fermavano a parlare volentieri. Nessuno aveva mai parlato tanto con me. Adesso mi sembrava di essere un altro. Mi dispiaceva addirittura di non aver parlato a quei due ufficiali, di non avergli chiesto che cosa volevano dalle nostre ragazze e se credevano davvero che fossero come quelle di Canelli. Quando la mora tornò a popolarsi, io ne sapevo abbastanza sulla festa che potevo parlarne con Cirino, con l'Emilia, con tutti, come ci fossi stato. A cena ci fu ancora da bere. La carrozza grande tornò a notte tardissimo, ch'io dormivo da un pezzo e sognavo di arrampicarmi sulla schiena liscia di Silvia come fosse il palo della cuccagna e sentii Cirino che si alzava per andare al cancello e parlare, sbatter porte e il cavallo sbuffare. Mi girai sul saccone e pensai com'era bello che adesso ci fossimo tutti. L'indomani ci saremmo svegliati, saremmo usciti in cortile e avrei ancora parlato e sentito parlare della festa. Il bello di quei tempi era che tutto si faceva a stagione e ogni stagione aveva la sua usanza e il suo gioco, secondo i lavori e i raccolti e la pioggia o il sereno. L'inverno si rientrava in cucina con gli zoccoli pesanti di terra, le mani scorticate, la spalla rotta dall'aratro, ma poi, voltate quelle stoppie, era finita e cadeva la neve. Si passavano tante ore a mangiare le castagne, a vegliare, a girar per le stalle che sembrava fosse sempre domenica. Mi ricordo l'ultimo lavoro dell'inverno e il primo dopo la merla, quei mucchi neri bagnati di foglie di meligacce che accendevamo e che fumavano nei campi e sapevano già di notte e di veglia o promettevano per l'indomani il bel tempo. L'inverno era la stagione di Nuto. Adesso che era giovanotto e suonava il clarino, D'estate andava per i bricchi o suonava alla stazione. Soltanto d'inverno era sempre là intorno, a casa sua, alla mora, nei cortili. Arrivava con quel berretto da ciclista e la maglia grigio-verde e raccontava le sue storie. Che avevano inventato una macchina per contare le pere sull'albero. Che a Canelli di notte dei ladri venuti da fuori avevano rubato il pisciatoio. Che un tale Accalosso, prima d'uscire, metteva ai figli la museruola perché non mordessero. Sapeva le storie di tutti. Sapeva che a Cassinasco c'era un uomo che, venduta l'uva, stendeva i biglietti da 100 su un canniccio e riteneva un'ora al sole la mattina perché non patissero. Sapeva di un altro ai Cumini che aveva un'ernia come una zucca e un bel giorno aveva detto alla moglie di provare a mungerlo anche lui. Sapeva la storia dei due che avevano mangiato il caprone e poi uno saltava e bramiva e l'altro dava cornate. Raccontava di spose, di matrimoni scombinati, di cascine col morto in cantina. Dall'autunno a gennaio, bambini si gioca a biglie e grandi a carte. Nuto sapeva tutti i giochi, ma preferiva quello di nascondere e indovinare la carta, di farla uscire dal mazzo da sola, di cavarla dall'orecchio del coniglio. Ma quando entrava al mattino e mi trovava nell'aia al sole, rompeva in due la sigaretta e accendevamo. Poi diceva: «E andiamo a vedere sui coppi». Sui coppi voleva dire nella torretta della piccionaia, una soffitta che ci si saliva per la scala grande, sopra il ripiano dei padroni, e si stava chinati. Lassù c'era una cassa, tante molle rotte, tra biccoli e mucchi di crine. Un finestrino rotondo che guardava la collina del Salto mi sembrava la finestra di Gaminella. Nuto rovistava in quella cassa, c'era un carico di libri stracciati, di vecchi fogli color ruggine, quaderni della spesa, quadri rotti. Lui faceva passare quei libri, li sbatteva per levargli la muffa, ma a toccarli per un po' le mani ghiacciavano. Era roba dei nonni, del padre del Sor Matteo, che aveva studiato in Alba. Ce n'era di scritti in latino come il libro da messa, di quelli con dei mori e delle bestie, e così avevo conosciuto l'elefante, il leone, la balena. Qualcuno, Nuto, se l'era preso e portato a casa sotto la maglia, tanto diceva non li adopera nessuno. «Cosa ne fai?» gli avevo detto. «Non comprate già il giornale». «Sono libri», disse lui. «Leggici dentro finché puoi. Sarai sempre un tapino se non leggi nei libri». Passando sul ripiano della scala si sentiva Irene suonare. Certe mattine di bel sole era aperta la vetrata e la voce del piano usciva sul terrazzo in mezzo ai tigli. A me faceva sempre un effetto che un mobile così grosso, nero, con una voce che i vetri tremavano, lo suonasse lei sola con quelle lunghe mani bianche da signorina. Ma suonava, e a detta di Nuto, anche bene. L'aveva studiato in Alba da bambina. Chi invece buttava le mani sul piano solo per chiasso e cantava e poi smetteva malamente era Silvia. Silvia era più giovane di un anno o due e certe volte faceva ancora le scale di corsa. Quell'anno andava in bicicletta e il figlio del capostazione le aveva tenuto il sellino. Quando sentivo il pianoforte io a volte mi guardavo le mani e capivo che tra me e i signori, tra me e le donne, ce ne correva. Ancora adesso che da quasi 20 anni non lavoro più di forza e scrivo il mio nome come non avrei mai creduto, se mi guardo le mani capisco che non sono un signore e che tutti si possono accorgere che ho tenuto la zappa. Ma ho imparato che le donne non ci fan caso neanche loro. Nuto aveva detto a Irene che suonava come un artista e che tutto il giorno lui sarebbe stato ad ascoltare. E Irene allora l'aveva chiamato sul terrazzo. Anch'io c'ero andato con lui e a vetrata aperta aveva suonato dei pezzi difficili ma proprio belli che riempivano la casa e si dovevano sentire fin nella vigna bianca sulla strada. Mi piaceva, accidenti. Nuto ascoltava con le labbra in fuori come avesse imboccato il clarino e io vedevo per la vetrata i fiori nella stanza, gli specchi, la schiena dritta di Irene e le braccia che facevano sforzo, la testa bionda sul foglio. E vedevo la collina, le vigne, le rive. Capivo che quella musica non era la musica che suonano le bande, parlava d'altro. Non era fatta per Gaminella, né per le alberi di Belbo, né per noi. Ma si vedeva anche in distanza, sul profilo del salto verso Canelli, la palazzina del Nido, rossa in mezzo ai suoi platani secchi. E con la palazzina, coi signori di Canelli, la musica di Irene ci stava. Era fatta per loro. «No!» gridò a un tratto Nuto. «Sbagliato!» Irene si era già ripresa e ributtata a suonare, ma chinò la testa e guardò lui un attimo quasi rossa ridendo. Poi Nuto entrò nella stanza e le voltava i fogli e discutevano e Irene suonò ancora. Io restai sul terrazzo e guardavo sempre il Nido e Canelli. Remo Girone ha letto La luna e i falò di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.